Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Per un omaggio a Mattia Torre, scomparso da pochi giorni, lo spettacolo Migliore, con Valerio Mastandrea, scritto e diretto da Mattia Torre, musiche originali Giuliano Taviani. Mancavo solo io. Mancavo solo io per far decollare il nuovo laboratorio su come si fanno i dolci buoni di una volta. Gli altri erano tutti d'accordo, molto contenti. A me non andava. Per carità, sembrava di enorme valore. Anche il volantino era bellissimo. Pasticceria ed è subito ieri. Analisi, recupero di una grande tradizione. Sembrava molto interessante, ma io non ero dell'umore adatto. E così due, tre, tutti all'associazione insistevano. Avevano un unico obiettivo: raggiungere i 10 elementi per dar vita a questa nuova avventura da vivere insieme. Erano in 9, ne mancava solo uno. E quell'uno ero io. Dai Alfredo, facciamo questo laboratorio, dobbiamo essere 10, se no la signora Inge non rientra nelle spese. Dai Alfredo! Ragazzi, ho capito, ma un altro... Abbiamo appena terminato il laboratorio su come si fa il pane di una volta. Alfredo, si può sapere cos'hai? Io ero in un momento molto delicato della mia vita. Nell'azienda dove lavoravo ero a rischio. Un'azienda moderna, un'azienda americana. Un'azienda che chiede ai suoi dipendenti di essere integri e retti sul lavoro, ma anche cittadini esemplari, buoni e generosi. Un'azienda che ti vuole bene, un'azienda che ti chiede di essere migliore. Servizio Happy Life, buongiorno, sono Alfredo, in cosa posso esserle utile? Sono Baraldi, voglio un tavolo per due all'Hilton, con sopra un mazzo di C41 rose rosse. Per le ore 21 sono a Bangkok. A Bangkok, benissimo dottore, le do conferma entro 20 minuti. In cosa consistesse il mio lavoro? Ce lo spiegarono molto chiaramente il primo giorno. Allora. La Emerald Card. Che cos'è l'Emerald Card? Ah, allora, è una prestigiosa carta di credito, va bene? Che offre ai suoi clienti una vasta gamma di servizi esclusivi, tra cui un numero di telefono, chiamando il quale il cliente dispone di un segretario personale che esaudisce tutti i suoi desideri. Quel segretario, sì. Sei tu. Per averla, la carta Emerald, bisogna avere molti soldi, un livello di spesa molto molto alto. E le persone con un livello di spesa molto molto alto, quando chiamano, possono anche non dire buongiorno, vanno di fretta, sono molto esigenti. Sono Carandini, voglio una Porsche, la voglio gialla, la voglio oggi. Non c'è niente che non possiamo fare. Noi possiamo tutto. Sempre Carandini, la Porsche non la voglio più gialla, non piace a mia moglie, la voglio nera. Amore, sicura, nera, nera, nera, grazie. Noi possiamo tutto. E loro lo sanno. La Porsche. Non la voglio più, la Porsche. Voglio una BMW. Un tempo al lavoro eravamo 99 operatori. Ora stava per essere introdotto un sistema informatizzato, per cui eravamo rimasti in 20. 18 ragazzi veloci e scattanti, Mario Calicchia e io. Tutti al primo piano, il livello più basso della carriera. Mario Calicchia era una brava persona. Aveva un po' di congiuntivite. Abitava molto lontano. Talmente tanto che lui stesso quasi non sapeva dove. Quando staccavamo da lavoro, lui saliva in macchina e semplicemente si dirigeva verso sud. Accendeva il motore, chiudeva gli occhi e si ripeteva: oh, speriamo bene, speriamo che ritrovo casa mia. Il lavoro era tutto per lui. E anche per me. Le do conferma entro 20 minuti. D'accordo, dottore, la richiamo tra 40. Perfetto, ingegnere, la richiamo entro un'ora. A me il mio lavoro piaceva moltissimo. Ma io e Calicchi eravamo a rischio. Ce lo dissero di martedì. Un martedì dal quarto piano arrivò una mail abbastanza informale. Siete a rischio, uno di voi due entra quest'anno, salta. Io e Calicchia non entrammo affatto in competizione, anzi, ci facemmo molta forza a vicenda. Mario, dai, eh. Ah, dai, Alfredo, speriamo bene, che ti devo dire? Pronto? Pronto, sono Ferranti. Allora, voglio una collana di fiori delle Hawaii. Originale, per carità di Dio, ho perso una scommessa con uno che se ne intende. Consegna su Varese dopodomani, prima delle 11, mi raccomando, che dopo ho il mio consueto seminario su Kierkegaard. D'accordo, professore, le do conferma entro un'ora. Questo è il mio lavoro. Questa è la mia azienda. Noi entriamo tutti muniti di badge, un tesserino magnetico che sa tutto di te. Ogni venerdì c'è la simulazione di incendio con relativa finta evacuazione. Lavorando bene si possono vincere viaggi premio nei luoghi del mondo a più alto rischio terrorismo. E tutti aspettiamo con ansia la prova annuale più impegnativa. Il colloquio con il presidente. Tu lo incontri nel suo ufficio e fai una cosa che sai fare. Una cosa, qualsiasi cosa, spieghi come l'hai fatta, dove l'hai imparata, perché la stai facendo. Lui ti guarda e capisce. Non ti giudica, non mette voti. No. Lui prende decisioni, le decisioni migliori per te. L'anno scorso il mio colloquio non è andato benissimo. Io ero forse, sì, ero troppo emozionato. Come prova ho suonato un allegro motivetto con un vecchio flauto dei tempi di scuola. Lui mi ha guardato e ha capito. Sono rimasto al primo piano, accanto a Calicchia. Pronto? Sono Gargani. Sono a Lampedusa. Sono a Lampedusa e qua non c'è un ristorante messicano. Io domani sera do una cena. Molto bella, messicana. Siamo un po' in difficoltà. No, no, dottore, perché? Le trovo un cuoco messicano disponibile a partire, le do conferma entro un'ora. Il suo profumo io lo riconoscevo. Lei ne usava tre. Uno fermo, uno secco e uno fermo secco. L'avrò vista passare sapendo di essere guardata almeno 10.000 volte, Sofia. Sofia. Sofia era buona, buona con i superiori, crudele con i sottoposti, era devota, destinata al potere. Era una stronza. La scia di profumo che si lasciava alle spalle per qualche motivo riusciva anche a precederla. Così capivo che stava arrivando, ancora prima di sentire il rumore dei suoi tacchi sul corridoio di mare. Non ci si poteva innamorare, no. Era area manager, la figlia del presidente. La paura di innamorarsi però lottava contro l'attrazione per la sua bellezza. E perdeva. Era bellissima, Sofia. Alfredo, sei lento. Vieni qua, ripeti con me. Efficienza? E velocità, precisione e velocità, determinazione e velocità. Hai fatto caso, Alfredo, che la parola velocità ricorre tutte e tre le volte? Alfredo, sii gentile, Alfredo, ti sei visto allo specchio stamattina? Sei orribile. Non ridere, hai la verdura in mezzo ai denti. Negli anni Sofia è scesa al primo piano per chiedere ai suoi dipendenti commissioni d'ogni tipo. Si faceva fare la spesa, pagare le bollette, ritirare i capi in tintoria. Io una volta le ho riparato la coppa dell'olio. Pioveva moltissimo nel piazzale dell'azienda. Ho buttato una mattinata una giacca e due vertebre. Ma lei è tornata a casa, mi ha fatto molto piacere. E comunque, no, non le si poteva dire di no. Beh, era area manager, era la figlia del presidente, era Sofia. Devi stare attento tu, Alfredo. sì, ero a rischio, dovevo stare molto attento, dovevo essere integro, retto, più buono e più generoso. Più generoso, anche con quelli dell'associazione, magari. Sì. Io ormai era da tempo che facevo parte di questa associazione in cui si fanno le cose belle. Facevamo il pane di una volta, i dolci buoni di una volta. Una settimana prima avevamo adottato un pero in Piemonte. Bisognava salvare un terreno di peri abbandonati. Avevamo detto va bene, l'avevamo fatta e qualcuno aveva detto che bello. Funzionava così questa associazione, si facevano le cose belle e tutti dicevano che bello. Pure io dicevo che bello, si stava tutti molto bene. Anche quando uno degli associati improvvisamente si ammalava, era molto triste, noi si interveniva tutti e a turno gli si diceva guarda che bello anche questo. E lui quasi sempre rispondeva è vero, è bello anche questo, è bello anche che sto male. Esatto, tu stai male, ma è bello anche così. Ma io sto veramente tanto male. Esatto. In questa associazione si trovava sempre il lato bello delle cose brutte. Altrui. E dai Alfredo, facciamo questo laboratorio, facciamolo per la signora Inge. È tanto una brava persona, poi il marito in quelle condizioni con quella gamba. Facciamolo, facciamo. E così, per 4 domeniche consecutive, sono andato in campagna a fare i dolci buoni di una volta. E devo ammettere che la campagna, l'aria fresca, le mani nella farina, tutti che dicevano che bello. Era piacevole passare le domeniche a fare i dolci buoni di una volta. Mi passi un bicchiere d'acqua di una volta? Alfredo, fermo. Ragazzi, venite tutti. Alfredo, lo sai che tu oggi sotto questo pioppo di una volta hai lo sguardo di una volta? Davvero? Davvero, che bello, che bello, che bello, che bello. Era tutto molto bello. Col dramma però del tiramisù. A me il tiramisù non mi veniva. Ma come è facilissimo fare il tiramisù? Non è vero. Fare il tiramisù è una delle cose più difficili del mondo. A me veniva una pappa insulsa. E l'ultimo giorno la signora Inge si era molto arrabbiata. Alfredo, prega Alfredo, di, prega. Signora Inge, no, volevo soltanto dire che per me il laboratorio è stato di enorme valore. Ah, sì, sì. Io me li so fare tutti i dolci, davvero. Sì, e me li mangio da solo. E so fare cosa? La panna cotta, il Mont Blanc, il castagnaccio, la crostata. E allora? È il tiramisù che non mi viene. Mi viene una cosa informe, molto simile al pongo. Era molto arrabbiata la signora Inge. Mi disse che io non mi rendevo conto del significato di quella sconfitta. Ed era vero, io non mi rendevo conto. Mi disse che io non sentivo lo strepitio del savoiardo a bordo teglia. Ed era vero, mi sforzavo sempre moltissimo, ma non lo sentivo mai. Mi disse che se lo volevo sapere, il tiramisù è vita. E il tiramisù rappresenta la vita. E chi sa fare una crostata e non il tiramisù? Ha paura della vita. E chi ha paura della vita di norma ha anche paura della morte. E che io, Alfredo, avevo un problema col senso della vita, quindi col senso della morte. Era vero anche questo. Da quando sono molto piccolo nella mia famiglia mi hanno sempre parlato di morte. Una delle prime frasi che ho capito bene non è stata ciao, sono la mamma. È stata quella una presa elettrica, se ci metti le dita dentro muori. Poi ero già cresciutello quando mi sono sentito di Alfredo, no, quella è acqua gelida, se la bevi dopo che hai giocato al calcio muori. Poi sono diventato adulto e sono andato a vivere da solo. Se scongeli un prodotto, lo ricongelo, scongelo, mangi, muori. Io ero sempre stato molto in guardia. La morte poteva nascondersi dietro i gesti più banali. Tuo zio Giorgio è morto battendo la seconda palla a tennis. E di che è morto? È morto! Tuo nonno invece un attimo prima leggeva un libro di fiabe, vedi lì su quella poltrona lì, un attimo dopo, è morto. Che fiaba erano? È morto! Che poi in realtà nella mia famiglia sono tutti molto allegri e affettuosi. Quando si incontrano si abbracciano anche commossi, l'ho visto io. Solo che secondo me nessuno pensa che piacere rivederti. Pensano tutti, ma è incredibile, siamo ancora vivi. Si comportano come se fossero in guerra. Sono tutti ancora in guerra nella mia famiglia. Tant'è che quando arriva la notizia di un parente, un vicino di casa, un amico morto, nessuno dice, che cosa terribile. Dicono tutti, è certo. Era vera questa storia della morte. La signora Inge aveva ragione. Alfredo, tu non sai neanche rompere un'ova come si deve. E l'ova è vita. Un'ova è vita. Con tutto che in quel periodo io avevo letto un libro in cui si diceva che avere paura della morte fa bene all'uomo, perché crea una tensione ideale tra sé e la fine della propria vita, e questo dà grande carica alla vita stessa. È come la tensione che scorre sull'asse che regge due ruote di un carro. Le ruote girano, il carro va avanti. Io ero vivo, ma ero in paranoia. E la paranoia è deleteria. La paranoia è una porta spalancata sui mali del mondo, sulle sue insicurezze. Io convivevo con una personalità bucata. Avevo un buco nella personalità, come se mi avessero sparato. E attraverso questo buco filtrava di tutto. Angosce, ansiette, spiffe. Qualche volta vere e proprie malattie. In quel periodo mi era filtrata una malattia poco comune. La brucellosi. Il medico mi aveva detto, Alfredo, è brucellosi! Io avevo risposto, ah, perché non suona bene questa parola, brucellosi. Però forse sapere che cos'è suonerebbe ancora peggio. La brucellosi risale a un per... Non la voglio sapere. Anzi, un po' me la volevo anche godere. Era da tempo che mi aspettavo una bella malattia. Di quelle con un nome importante, di quelle che quando ti chiedono che cos'hai, si può sapere che cos'hai, invece di rispondere, guarda, una cosa che mi... Che cos'hai? Una cosa che mi parte da qua e mi prende, ti parte, che cos'hai? Che cos'hai? La brucellosi! Silenzio. Tutti muti. Neanche all'associazione erano stati in grado di dirmi, la brucellosi, dai, in fondo è una cosa bella anche questa, non ce l'avevano fatta. Si erano limitati a rispondere a... Brucello, mamma mia, dai. Vieni Alfredo, vieni. Prepariamo i festoni per il concerto del marito claudicante della signora Ing, dai. Solo mia sorella aveva avuto il coraggio di dirmi, certo però Alfredo, pure tu. Come se fosse colpa mia che avevo la brucellosi. Come se uno la brucellosi se la prende così un giorno che non ha niente da fare. Come se io già non avessi i miei problemi di salute. Avevo un'ernietta cervicale, un po' di lombalgia, della piorrea, che è un riassorbimento dell'osso correlativo a morte delle gengive. Avevo tutte cose che per curarle serve per ognuna una mezz'oretta al giorno. E se andiamo a sommare tutte le mezz'orette, alla lunga la giornata è passata, la vita è finita. Per curare queste malattie, uno le cura diciamo perché vorrebbe vivere, alla fine si impiega lo stesso tempo che occorrerebbe per vivere. Per vivere la vita. Lei è credente? Nuotare fa bene. Io ero andato in una piscina di preti, dove prima però bisogna superare un colloquio con la madre superiora. Le ho chiesto se è credente? Beh, io sì. Battesimo, comunione, cresima, tutto? Sì. Fidanzato? No, molto male. Perché? Come perché? Qui è pieno di donne e ne vogliamo evitare incontri promiscui. Beh, ma... Sorella. Sorella di chi? Vada, arrivederci. E così ero andato a correre. Correvo in un parco, correvo 14 minuti. Solo che correvo e mi faceva male il collo. Correvo e mi faceva male la schiena. Correvo e mi saliva la febbre per la brucellosi. Dai, Alfredo, però stringi i denti. Li stringevo, ma mi sanguinavano le gengive per la piorrea. Signora Inge, la prego, mi dia un'altra possibilità. So fare il pane. Il pane buono, mi faccia fare un po' di pane di Lariano. Fagello. Ma aveva ragione, il progetto pane era acqua passata. Quella sera tornai verso casa e 24 ore dopo avrei ucciso una persona. Cortesia di bocca e mano al cappello. Costa poco ed è buono e bello. L'asino Alfredo non conosce la coda se non quando non l'ha più. Io ci metto sempre un'ora a trovare parcheggio. Sempre, un'ora. Quella sera arrivai a casa molto, molto stanco e avevo una sola speranza. Quella di non incontrare Farone. Farone no, non in quel momento. E invece Farone era lì, immobile, pronto e molto contento di vedermi. Alfredo! Farone è il notaio del quarto piano che si esprime solo attraverso proverbi e citazioni. Citazioni di autori che lui sa che tu non conosci, lo sa. È solo per il gusto di vederti che stai lì e bofonchi. Per questo lui ti cita Jankelevich, Olan, Wyszynski, per sentirti o che dici ah o che menti. E come no? Ha letto tutti Levich. Chi? Levich lì. Alfredo! No. Sembrava allora. Alfredo! Farone è così. Farone vuole sentire l'odore della tua umiliazione culturale. Farone ha studiato tutta la vita per schiacciarti. Ha passato intere giornate sui libri pensando prima o poi ci terrò. Guarda che bello, bello poeta persiano. Dai che facciamo secco qualcuno, dai. Lui adora i proverbi, in verità. Soprattutto quelli inutili, quelli che non si capisce perché uno li dice. Meglio perdere il dito che la mano. È certo. No! Meglio fringuello in mano che tordo in frasca, non trabocchetto, Alfredo. Perché? Mi dica perché. No, perché? Non lo so, perché. È molto difficile instaurare un dialogo con lui. Uno ci prova sempre. Buonasera, Farò. Sì, buonasera. Diciamoci la verità. Qui dopo la siepe è bassa, ognuno vuole passare. È vero o no, Alfredo? Sì, è vero o no? È verissimo, sì. Quella sera lui non era solo. Era accompagnato da un cane. Un cane molto grande, un alano, credo. Si chiama Ilario, mi disse. È il cane di mia figlia che sarà via per un anno in America, per lavoro. Lui resterà un po' con me. Purtroppo sta attraversando un periodo un po' così. Io guardai il cane che mi fece sì con la testa, come a dire... Sì, non è un bel momento per me questo, guarda. Quella sera andai a dormire come sempre, cioè come Calicchia cerca casa sua o come un soldato si dirige al fronte, cioè pensando, dai, speriamo bene. Io soffro di insonnia e allora per me inizia un'odissea. Un'odissea fatta di piccole, minuscole simulazioni. Mamma mia che sonno! Finti sbadigli. Stanotte mi faccio proprio una bella dormita. Invece non succede mai niente. Invece non solo non dormo e sono sveglio, ma io improvvisamente vedo. Vedo tutto e vedo molto meglio. Vedo gli oggetti al buio intorno a me, dentro i tubi del palazzo, attraverso gli appartamenti dei condomini. Poi vedo fuori, gli autobus vuoti, le strade umide, la città immobile. Vedo tutto, tutto finché non mi addormento davvero, e lì inizia la fase peggiore. Mi sveglio con una mano senza sangue, una mano tronco, molto pesante e molto fredda. Non mi appartiene più. La schiaffeggio, non succede niente. Poi guardo l'ora e sono le 2:22. Perché funziona così quando mi sveglio. L'orologio segna sempre questi orari strani. 2:22, 3:30, 1:11. Una volta mi sono svegliato che ero in piedi davanti alla finestra. Avevo le mani dietro la schiena, guardavo fuori e facevo sì con la testa. Ero d'accordo. La notte di solito terminava con la citofonata della nettezza urbana. Noi abbiamo i cassonetti dentro al palazzo e da 11 anni la nettezza urbana citofona a me. Alle 7:28, 7:30, puntuale. Quando io attacco a lavorare alle 10 fino alle 8, 8:30 potrei anche dormire. Sì, pronto, nettezza urbana apra, buongiorno, buongiorno, buona giornata. Sì, va. Poi mi bevo il caffè e leggo il giornale. Galateo, dei messaggi al cellulare, brevi, sì, ma senza esagerare, giusto? Cane si perde in Colorado, ritrovato in Tennessee. Dopo le notizie del giorno, sono pronta ad uscire. E nell'androne del palazzo incontro sempre tutti. C'è la signora Silvia, la signora in carrozzina del secondo piano. Buongiorno signora Silvia. Non saluta mai, mai. Passa velocissima e se ne va. C'è Adua, la donna delle pulizie, che invece è molto gentile. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te Adua. Ah, quell'ora c'è anche la figlia di Adua, Maria. Ha 13 anni, va a scuola con lo zainetto sulle spalle. È un'adolescente, svogliata. Maria, saluta Alfredo. Buongiorno signore. E poi davanti al portone lo vedo, Ilario, l'alano. Era solo, senza Farone. Lui usciva da solo, ma forse aveva anche le chiavi di casa. Mi guardava dall'alto in basso, io ai piedi avevo le Clark, lui me le guardava un po' contrariato. Poi fece una smorfia, come a dire, mamma mia, guarda questi ancora con le Clark, guarda. Servizi Happy Life, buongiorno, sono Alfredo, in cosa posso esserle utile? Bahamas, Seychelles, Maldive. Sono stanco e stressato, non riesco neanche a... Spa, benessere, relax. Me lo risolve lei questo problema? D'accordo, dottor, grazie. Vanno di fretta. I passi di Sofia lungo il corridoio vanno di fretta. Ma io la vedo a rallenti. Lo faccio sempre. Ci riesco. La vedo a rallenti, lei passa lenta. Io ho più tempo per guardarla. Dura di più. Un'ora. La solita ora per trovare parcheggio. E questa è una legge che non ammette repliche. È come le leggi che regolano l'andamento degli astri e la scia delle comete. Un'ora piena. Arrivo a casa veramente distrutto. Entro nell'androne che Adua ha appena finito di lavare le scale. La signora Silvia è bloccata al piano terra. L'ascensore è rotto e non può tornare a casa. Sono stanco, è vero, però mi offro di prenderla in braccio. Buonasera Adua, buonasera signora Silvia. Andiamo, la porto io. No, non voglio. Lei forse pensa che io sia molto, molto stanco. È vero, ma mi farebbe molto piacere portarla su. Andiamo, ci mettiamo pochissimo. Aspetto la ditta, li ho appena chiamati. Ma l'ultima volta la ditta l'abbiamo aspettata 6 ore, signora Silvia. Diglielo anche tu. Andiamo, dai, ci mettiamo veramente. Non voglio. Braccio sotto le ascelle e uno sotto le gambe. La sollevo. Lo so fare, ho fatto il volontario io. Lei non dice nulla, chiude gli occhi e mi sussurra. Alfredo, non va. Signora Silvia, guardi, non mi faccia il solletico qui. Già siamo al primo piano, apra gli occhi. Alfredo, io non va. Signora Silvia, salutiamo Adua là sotto. Ciao Adua, siamo quasi arrivati. Su, stia calma, stia tranquilla. Alfredo, non voglio. Le scale bagnate, le Clark, scivolo, mi sbilancio, perdo l'equilibrio. E Clark sui gradini ancora bagnati, cado. E la signora Silvia cade insieme a me. La signora Silvia cade e batte la testa. Adua urla, dice: oddio, oddio, oddio, non voleva essere preso. Io mi rialzo e la signora ha perso i sensi. Sirene di ambulanza, portantini la prendono, la caricano, la portano via. La figlia corre, urla anche lei: oddio, oddio, oddio. Io assisto senza parole. Dopo un'ora una cartella clinica con dentro un referto medico. È morta. Sono stato io. Alfredo Lotto. Alfredo, che hai fatto? Per un po' di tempo sono rimasto seduto sul mio divano di casa. Il buco della mia personalità era diventato molto grande, grandissimo. Dentro c'entrava un po' di tutto. C'entravano i rumori che venivano da fuori, i clacson, le frenate. C'entrava tanta televisione. Una psicologa diceva che non si possono amare due persone contemporaneamente. Due anziani perdevano tanti soldi all'ultima domanda di un quiz, ma si tenevano per mano e dicevano: oh, questo è solo un gioco, dai, solo un gioco. Nella pancia mi sono entrati colpi di scena e ballerine. Spazzolini, numeri verdi e acque minerali. Nella pancia mi sono entrati tanti saluti a casa e due medaglie di bronzo. Naso schiacciato, pelle olivastra, ecco il vero volto di Babbo Natale. Nella pancia mi è entrato uno speciale dedicato ad una tra le 10 manager più pagate del paese. Sofia Pardi della Emerald Card. Si faceva ritrarre in pose sexy sui divani del suo ampio salone mentre la speaker diceva: Sofia è una persona molto semplice e legata ai valori della famiglia. Nella pancia mi è entrato tutto questo. E io tutto mi sono tenuto. Alfredo, ho appena saputo la notizia, sono corso, appena ho potuto, sono sconvolto, sbalordito. Alfredo, che dramma. Perché proprio a te? A me? Ma come? Ma come a me? Che è successo alla signora? È morta, mamma. È morta? Sì, certo. Pronto, sono Gargani. Sono sulle Dolomiti. È bello qui, eh. C'è poca neve, ma insomma. In realtà, Alfredo, io non ho bisogno di nulla. Magari richiamo più tardi. Procura della Repubblica. Conclusione indagini preliminari, procedimento pendente per violenza privata e omicidio colposo. Lei cosa da dire in merito a... No, beh, lei ha sentito dire la signora espressamente... Beh, io... Era solo possibile, mi ascolti? Sì, l'ascolto. Mi ascolti e mi guardi, la guardo. Era possibile leggere la resistenza della signora, ulteriore tentativa... Oh, io... Accanto a me c'è l'avvocato d'ufficio. È quello dei film, è lui. Lo guardo e mentre dico, beh, io, lui mi guarda e fa sì con la testa, come a dire, beh, tu. Prendo un avvocato di fiducia, elegante e disinvolto, mi dice, lascia fare. Articolo 438 del codice di procedura penale. Rito abbreviato. Ma io non lo conosco, non so cosa sia meglio. Lascia fare. L'imputato è presente? Sì, sono qui, il prossimo congiunto, la parte offesa, avvocato, sì. Eccezioni sull'atto? No, nessuna eccezione. L'accusa ritiene provata la penale responsabilità in ordine le attenuanti generiche, chiede condanna a mesi 6 di reclusione. E il giudice dice: bene, grazie. Contrariamente a quanto sostenuto dal pubblico ministero, puntuale, capillare, si ritiene pervenire ad una, la fattispecie, la condotta del mio, articolo 610, l'elemento soggettivo, il cospetto delle premure, il dolo. Io non capisco, tu lascia fare. Lo scrupolo difensi il soggetto è incensurato, le dichiarazioni lese, non capisco. Lascia fare, non lascia fare. In nome del popolo italiano, visto l'articolo 530 del codice penale, assolve il signor Bomona, assolve il signor Bomona Alfredo dal reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato, riservandosi in giorni 30 la motivazione del presente provvedimento. Sono assolto. Vieni qua! L'avvocato di fiducia elegante e disinvolto mi abbraccia molto. Vieni qua, abbracciami. Ma sono assolto. Ma perché assolto? Perché mi hai lasciato fare. Mi abbracci. Vieni qui, abbracciami! Sono assolto. Bravo Alfredo, che bella notizia. Finalmente un po' di fiducia in questa giustizia. Bravo Alfredo. Bravo Alfredo. Colpevole? È assolto. Dovresti essere contento. È la frase che per tutta la sera temo mi dica mia sorella mentre ceniamo insieme in un ristorante sotto casa. Invece mia sorella continua a parlarmi di cose che non capisco, deve arredare la sua di casa. Ecco, deve decidere, sì, il colore delle pareti. Allora io penso, dovrei essere contento per il solo fatto che mia sorella non mi dice che dovrei essere contento. Aia, se non fosse che un signore molto rumoroso, che fa parte di un'altrettanto rumorosa tavolata, continua a darmi dei colpi molto forti con la sedia. È una tavolata molto allegra, ridono tutti. Solo che ridono lanciandosi all'indietro nel vuoto. Le prime due volte mi ha anche chiesto scusa, dopo la terza più niente, evidentemente se n'è dimenticato. Poi mia sorella mi dice che il rosso Alfredo può portare alla follia. Mentre il giallo indiano, guarda, dimmi se non sbaglio, il giallo indiano è molto sobrio, vero? Sì. Però è troppo di tendenza. Esatto, giusto. Bevi un po' di vino, Alfredo. Mi riempie il bicchiere, mia sorella. Lo prendo. E mentre sto per portarlo alla bocca, mi arriva un colpo veramente, veramente forte. Signore, chiedo scusa a tutti, mi dispiace interrompervi, ma posso chiederle di fare più attenzione con la sedia? Mi sta dando dei colpi veramente, lui si volta, ma che cazzo è? Oddio, scusi ancora lei, mi perdoni, ci perdona? Ma certo, no, ma perdonatemi voi, scusi. Ma scusi lei, scusi. Poi mia sorella mi dice che l'arancione... Perché l'arancione, Alfredo, è il colore del futuro. Secondo te, Alfredo, l'arancione e il cotto fiorentino si sposano? Secondo me sì. Esatto, Alfredo. Mangia adesso, mangia. Senti quanto è buono questo pesce. Mangio un po' di pesce. Improvvisamente, mentre la forchetta è vicino alla mia gengiva, mi arriva un colpo di una violenza inaudita. Signore, mi dispiace interromperla nuovamente, ma io ho le prove, inizio a sanguinare. Perché non prende la distanza necessaria al suo sorriso? Lei rompe molte coglioni, però, lo sa questo. E tutti ridono, lanciandosi all'indietro nel vuoto. La gente è molto nervosa. Poi passa qualche minuto in cui mia sorella dice 300 parole sui colori dell'arcobaleno. E io penso, passino le 300 parole, purché non mi dica che dovrei essere contento. Com'è questo vino, Alfredo? È buono, è buonissimo. Anche il pesce non è buono, non è fantastico? Sì, è molto... si mangia veramente bene qui, sì. Allora perché hai quella faccia? Dovresti essere contento. Signore Alfredo, tu oggi devi essere contento. Scusa, no, ripeti con me, io sono contento. No, non c'è bisogno, c'è bisogno. Signore, io sono contento. Signore, io... Mi fai male! Ma Alfredo, stai zitta, va pal culo troia. Il signore si alza molto lentamente. Mi si para davanti. È enorme. Mi fissa e io penso... Morte. Invece dice a voce alta, andiamo via questo posto di merda, dai, via tutti! La tavolata rumorosa si alza e lo segue. Dovresti essere contento. Un cliente in fondo alla sala inizia a battere le mani. Anche un altro, più vicino al nostro tavolo, batte le mani. I camerieri si dispongono a semicerchio e battono le mani. Eccoli, i cuochi escono dalla cucina, fanno il trenino e battono le mani. Qui piano piano tutti applaudono, è un applauso molto forte e molto ritmato. Il conto, per favore, la prossima volta, Alfredo! Oggi sei ospite nostro, non è vero, ragazzi? Signorina, che fortuna, buon proseguimento di serata. Uscendo mia sorella mi stringe molto forte sotto al braccio. Mi sorride sincera. Ha uno sguardo che non le avevo mai visto. Alfredo, grazie per le tue parole. Quali parole? Grazie, è stato molto importante per me, davvero. Quella sera torno a casa, mi spoglio, mi metto a letto e per una volta dormo. Cioè, io mi addormento in maniera normale, naturale. Prendo sonno, come tutti. Poggio la guancia sul cuscino e mi addormento. Dormo 8 ore. Appena sveglio inizio anche a farmi delle domande. Perché tra 10 inquilini la Nettezza Urbana ha sempre deciso di citofonare a me? Perché a me? Chi è la Nettezza Urbana? Ah, bravo, indovinato, hai visto? Dopo 10 anni, bravo! Bravo Alfredo! Uscendo incontro la padrona di casa, come scusi, bravo. Ho saputo il ristorante, ne ha parlato il giornalaio, quello ha detto il ferramento. Bravo, ha fatto benissimo a farsi valere. Bravo. Mi guarda in maniera molto strana, mi fissa la bocca. Io me ne accorgo. Signora, le dovrei pagare l'affitto? Io... Non si preoccupi, Alfredo, non c'è fretta. Bravo. Io riprendo a correre, ma in modo diverso. Ho più fiato, meno dolori al collo, meno dolori alla schiena. Servizio Happy Life, buongiorno, sono Alfredo, in cosa posso esserle utile? Sono in Nepal, ho bisogno di acqua minerale, come si può fisso, basso. Io qua non piscio più. Mi sente, mi riceve? Mi ascolta? Sì, la sento forte e chiaro, mi dica dottore. Allora vedi, questi hanno campo ma non hanno l'acqua, capito? Selvaggi. Servizio Happy Life, buongiorno, sono Alfredo, in cosa posso esserle utile? Sono in Olanda! Non mi piace! Inizio a ricentrarmi. Inizio a chiudere il buco che ho nella pancia. La mattina mi alzo, bevo il caffè, leggo il giornale, ma la mia pancia è chiusa. Non c'entra più niente. Che da qualche anno il bricolage è un hobby tutto al femminile, non mi interessa. Che il pellicano indonesiano è a rischio estinzione, non mi interessa. Che uno studente di fisica in Oklahoma è morto perché svenendo è caduto nella ciotola del gatto ed è annegato in 10 centimetri d'acqua, non mi interessa. Ricapitoliamo. Sì, allora, sì, mi perdoni. Lei mi ha chiesto un coro di bambini per il funerale di suo zio, giusto? Esatto! Ma... Prego? No... Niente. Profumo secco. Sofia si avvicina e si siede sul tavolo di calicchia. ha una gonna che lascia intravedere l'autoreggente, lei lo sa. Io la guardo e lei sa pure questo. Poi parla con Mario, ma non sta parlando con lui, sta parlando con me. Gli dice: stanno prendendo decisioni molto importanti, Mario, se hai problemi di esubero, tu non dovresti rischiare niente. Tu. Però guarda me con la coda dell'occhio. Poi le viene da ridere. Si alza e si allontana. È bellissimo. Alfredo, ho saputo della soluzione. Complimenti. Corro 50 minuti. Lo rompo il fiato. La milza si strizza e mette in circolo più sangue. Si aprono i capillari dei campi polmonari superiori, aumenta la superficie di scambio di ossigeno. Corro 60 minuti, 70, 80. Sto meglio. E quando corro non vedo niente intorno a me. Strade, persone, palazzi, alberi, macchine, niente. Sento solo i miei passi. Solo i miei passi. E il mio cuore che accelera. Pronto, Alfredo. Alfredo, è successa una cosa terribile. Ci dispiace dirtelo così, ma... Alfredo è morto. Il pelo in Piemonte è morto. È morto il pelo. Rendi conto, Alfredo. E non è bello anche così? Che è morto questo pelo. Alfredo, tu sei sconvolto, come tutti noi, ti capisco, però è bello anche così. Tutto procede normalmente. Estendendosi o implodendo, l'universo continua a fare ciò che deve fare. La fascia di Oort circonda il sistema solare. La Luna mostra la stessa identica fascia nel suo lieve moto di rivoluzione. Tutto procede normalmente, tranne che per una cosa. In 3 minuti io ho trovato parcheggio. Alfredo! Alfredo! Sì, dottoressa, la macchina è in officina, non me la ritiri per le 5, me la ritiri alle 6. No, non te la ritiro. Cosa? Non te la ritiro. Non mi va. Cosa, sei impazzito, Alfredo? No. È che non mi interessano le tue commissioni, Sofia. Non le faccio. Ti dico di no. Anzi, non ti avvicinare mai più per chiedermi una cosa simile. Ah, no! No! E che cosa sarebbe questa, Alfredo, una minaccia? Sì. Pronto, sono Perrotta, attenda in linea, Perrotta. Allora, Mario, ricapitoliamo. No, sentimi. O è ambo o non è nient'altro. Non puoi entrare in ufficio gridando ho fatto quasi ambo, perché non hai vinto niente. No, non ridere, hai la verdura in mezzo ai denti. Perrotta, eccomi qua, mi scusi. No, mi scusi lei, Alfredo, vuoi che la richiami in un momento più opportuno? No, mi dica, due parole. Grazie, Alfredo. Ecco, mi ci ha fatto ragionare moltissimo per il funerale di mio zio. Non sarebbe piaciuto allo zio un coro di bambini. Grazie, Alfredo, grazie, complimenti. Grazie a lei, Perrotta. Quella sera corro 1 ora e mezzo. Vado a letto alle 11. Dormo 8 ore piene. Alle 7 sono in piedi, mi faccio una doccia, mi metto una tuta. E alle 7:27 sono giù accanto al portone con la schiena poggiata al citofono. Scusi, ci libera il dovremmo citofonare. Siamo della nettezza urbana, abbiamo da ritirare dei cassonetti. Però non è possibile. Signore, sono le 7, per favore. Aia! Ah! Ma chi è? Che lei è l'inquilino a cui citofoniamo tutte le mattine. Io l'avevo capito, vedi. Vabbè, noi possiamo passare anche più tardi. Oppure cambiamo proprio. Ci dica a chi citofoniamo, dica lei. Farone, segna, Farone. Ah! Alla fermata dell'autobus, la figlia di Adua, Maria, ha assistito alla scena. Sta andando a scuola, ha lo zainetto sulle spalle. L'autobus passa, ma lei non lo prende. Mi guarda, attraversa la strada, si avvicina. Tu sei Alfredo? Sì, ciao, Alfredo. Al lavoro i clienti iniziano a chiedere di me. Vogliono parlare con me, vogliono che sia io a parlare con loro, vogliono essere trattati male, vogliono un dubbio, vogliono il no. Alfredo, no! Ecco, era solo per chiedere, grazie Alfredo. I passi di Sofia lungo il corridoio. Continuo a camminare sapendo di essere guardata. Si ferma, si volta, controlla, mi guarda e poi se ne va. È bellissima. Pronto? Sì, sono Alfredo. Oi Alfredo, ciao, ciao. Sei dei nostri, stasera abbiamo la riunione del progetto ceramica. Non vi voglio mai più vedere. Voi, il vostro Pero in Piemonte, quell'ubriacona tedesca sociopatica di Inge. Il marito, lui, lo zoppo che suona l'arpa all'associazione. Perché non è claudicante, è zoppo. Non vi voglio mai più vedere, ma chi sei tu, Toglimi questa curiosità, chi sei dei 9 disadattati che ogni tanto mi chiamano a casa? Non me lo dire, tanto vi odio tutti. Odio tutto di voi. Odio le vostre pesche biologiche, le vostre gite in trattore, il vostro pane di una volta. Io non le voglio più le cose di una volta, io voglio le cose di oggi, io voglio le cose di domani. A me mi fate schifo, non vi voglio mai più vedere. Ed è bello anche così. Alle 7:30 dell'indomani mattina... Mi affaccio alla finestra e lo vedo. Ilario, l'alano. Mi guarda e ride. Mi ha citofonato. Apro la porta di casa e trovo una merda sul tappetino. Mi ha defecato sul tappetino. Quando scendo è lì che mi aspetta. Decidiamo di non dirci niente, ma ci fissiamo per un attimo lunghissimo. Il semaforo è verde, sì, ma io non mi muovo. Le macchine dietro impazziscono, i clacson scoppiano, la gente urla, sbraita. Non mi muovo. Mi sto godendo un raggio di sole. Chiudo gli occhi. Respiro a fondo. Un minuto di fotosintesi. Lungo il corridoio, all'altezza dello sgabuzzino, la incrocio e la saluto. Lei non mi risponde, continua a camminare, continua a sfogliare dei documenti che ha in mano, non mi vede, non mi guarda. Ciao, stronza. Ora si ferma e si volta. Ora lo incrocia il mio sguardo. Io le tendo una mano continuando a sorriderle. E lei per istinto, per sbaglio, mi tende la sua. Efficienza e velocità. Precisione e velocità. Determinazione e velocità. Che profumo hai, Sofia? Il polso che le sto stringendo fa uno strano rumore di ossa. E lo stesso rumore sembra fare la maniglia dello sgabuzzino che con l'altra mano stringo e quasi spezzo. Poi tiro tutto verso di me, la maniglia e la stronza. E in un attimo siamo dentro, al buio. Al buio pesto. Lei inizia a realizzare, la sento che inizia a realizzare, la sento che dice... Che succede? Che succede? Ora te lo dico cosa succede. Ti scoperò. Ecco cosa succede. Fino nei tuoi capelli ti scoperò. Riempirò tutto il tuo corpo di scopate, la tua mente, la tua anima. Ti scoperò finché non scoppierai. E la mia grande scopata sconvolgerà te e ricadrà sui tuoi figli e sui figli dei tuoi figli. Per 10 generazioni i tuoi discendenti sentiranno l'effetto di questa scopata. Si sveglieranno di notte, di soprassalto, e sentiranno l'eco di quello che io ti farò. Ecco cosa succede. Ma non ora. No. Martedì è morto mio padre. Certo. Al funerale sono arrivato molto tardi, avevo tanto lavoro da sbrigare. Appena giunto lì mia madre mi ha chiesto se non trovassi bellissima ed elegantissima mia sorella. Ho risposto sì, mamma, assolutamente sì. Sono venuto a dividere la madre dal figlio, il padre dalla figlia, la suocera dalla nuora. Troverai nella tua famiglia i tuoi peggior nemici. Gesù di Nazareth, Vangelo secondo Matteo. In macchina ripenso alla morte e non mi fa più paura. Non ho più paura di soffrire, non ho più paura di morire. E per cui non soffrirò. Per cui non morirò. Nell'androne del palazzo tutti i condomini sono inorriditi di fronte ad uno spettacolo agghiacciante. Ilario è impiccato nella tromba delle scale. Mi ha appeso come un salame. Sono circa 60 kg di cane che penzolano in aria. Gli occhi rossi che fuoriescono dalle orbite perché non arriva più il sangue dalla vena oftalmica. La lingua ovviamente blu fuori, per la stasi venosa e la cianosi facciale. Chi può aver fatto una cosa simile? Mentre salgo le scale c'è un improvviso silenzio. Non che prima parlasse qualcuno, ma molto strano. Primo gradino, mutismo assoluto. Alfredo! È la figlia della signora Silvia, la signora in carrozzina. Alfredo, volevo parlarle un attimo, è possibile? Volevo parlarle di quanto accaduto a mia madre, Alfredo, è possibile? Volevo chiederle scusa. Volevo dirle che mi dispiace veramente tanto. Alfredo, è stato un incidente. Thank you. Sì, presidente. Sì, è andata proprio così, sì. Quando 2 giorni più tardi sua figlia Sofia si è avvicinata al mio tavolo, era irriconoscibile. Era sparita quell'aria da manager, era struccata, fragile, vulnerabile. Ha posato la sua mano sulla mia scrivania e mi ha sussurrato: Alfredo, quello che mi hai detto l'altro giorno nello scapuzzino. Sì, fallo. E io lo posso fare. Io posso fare tutto. Io ho fatto tutto. Ho fatto tutto quello che mi si è chiesto di fare, presidente. Ho fatto tutto il necessario per essere migliore. E non è difficile essere migliori, l'ho imparato in questa azienda. È stata sua figlia a promuovermi team leader. E devo dirle, presidente, che non è male a girarsi intorno ai tavoli, a voler bene i dipendenti, a volerli migliori. Efficienza, precisione, determinazione. È stata sua figlia a licenziare Calicchia. Ha pianto molto, Mario. È stata una giornata molto faticosa. Adesso che faccio io, Alfredo? Non lo so, Mario, stai calmo, distratti, pensa ad altro. A cosa? Al viaggio premio nel quartiere sciita di Beirut. Poi quando torni si vedrà. È una brava persona, Calicchia. Io non provo assolutamente nulla per lui. Presidente, ma veniamo a noi. Per questa prova annuale io ho deciso di farle il tiramisù. Oggi il tiramisù mi viene benissimo. Lei è credente? Tu perché sei suora? Prego, te lo dico io perché sei suora. Perché tu sei brutta. Vede, presidente, avrei potuto parlarle a lungo di questo dolce. Avrei potuto parlarle del gusto intenso del caffè, della delicatezza del mascarpone, della fragranza dei biscotti. Avrei addirittura potuto parlarle di un po' di storia del tiramisù. Concepito alla fine del XVII secolo da pasticceri senesi in onore del Granduca di Toscana Cosimo III de' Medici. Il tiramisù è vita. E il tiramisù rappresenta la vita. La morte pareggia tutti quanti, prego. La morte, Alfredo, non riceve nessuna scusa. Martedì ho stretto molto forte Farone alla gola. Gli ho detto: Farone, io non ti uccido, ti traduco. Ah, già rotto per bacco, la lingua non ha osso eppure può rompere un dosso. La palabra non è una fleccia, Farone, però chiere. La longumen padomes el casquatrinedo. Dopo la traduzione in latino ha perso i sensi. Vede, presidente, avrei potuto parlarle di quanto il Granduca apprezzò il sapore delizioso di questo dolce, ma soprattutto di quanto apprezzò l'estro, la forza e la fantasia dei pasticceri che lo realizzarono, tanto da convincersi ad esportarlo ovunque nel mondo. Che poi è la stessa cosa che lei farà con me. Non è vero, presidente? Pronto, sono Gargani. Buonasera, dottore, mi dica, chiamami Fabio, Alfredo, ti prego. Fabio, buonasera, mi dica, di cosa ha bisogno? Di questa telefonata. Sarà l'ultima, Alfredo. Ho deciso di farla finita. Fabio? Sì, Alfredo. Fabio? Sì, fallo. Vede, presidente, avrei potuto parlarle di tutto questo, ma non ce n'è bisogno. Non ce n'è bisogno perché io so già delle cose. So, ad esempio, che a prescindere da questa prova o per merito di questa, io continuerò a lavorare in questa azienda. Io in questa azienda crescerò. So che niente mi può impedire di crescere qui dentro e poi di crescere altrove se ne avrò voglia. So che lei mi concederà la mano di sua figlia. So che io la sposerò. So che andrò a vivere dove sua figlia vive ora e che nello stesso salotto che ho visto in televisione io e lei, presidente, discuteremo amabilmente, andremo d'accordo. E io so che tutto andrà come deve. Perché io ho fatto tutto come si deve. E ci sposeremo in chiesa, ci mancherebbe altro. Ne sono più che convinto anch'io. Vedrà. Vedrà. Sarà tutto magnifico. Per un omaggio a Mattia Torre, scomparso da pochi giorni, lo spettacolo Migliore, con Valerio Mastandrea, scritto e diretto da Mattia Torre, musiche originali Giuliano Taviani. Con Alessandro Di Somma del Teatro Studio 1 per parlare di Pillole al Teatro Studio 1 a Roma dal 19 al 28 luglio 2019. Alessandro, ben trovato. Salve, ciao Federico, salve a tutti. Ci racconti? Sì, vi racconto questa ennesima edizione di Pillole, che è il modo in cui il Teatro Studio 1 seleziona gli spettacoli della stagione. Noi abbiamo fatto una call agli artisti, ci sono arrivate quasi 200 proposte, di queste ne abbiamo selezionate una quarantina e vedremo questi 12 minuti di progetti di spettacolo in queste serate aperte a pubblico e critica nel nostro spazio per selezionare gli spettacoli che faranno parte della stagione 2019-2020 del Teatro Studio 1. E l'ultimo giorno, il 28 di luglio, i progetti più interessanti che abbiamo visto durante le giornate di Pillole si esibiranno al Teatro Quarticciolo, perché abbiamo aperto una collaborazione con i ragazzi del Quarticciolo e quindi si riserveranno di scegliere qualche spettacolo anche per la loro stagione, quindi questa è la nostra proposta. Le cose che si vedranno sono proprio questi 12 minuti di progetti di spettacolo, quindi la messa in scena è a totale discrezione della compagnia, quindi si possono fare letture o mise in spazio oppure 12 minuti proprio dello spettacolo come sarà poi intero. Il pubblico, i giornalisti e la critica ci permetterà di scegliere la nuova stagione del teatro. Com'è stata la scelta, Alessandro? Guarda, molto dura, perché quest'anno veramente abbiamo visto tantissimi progetti interessanti e è stato veramente difficile sceglierne solo 40, quindi siamo stati molto combattuti e la scelta è sempre legata anche al contestualizzare in un teatro come il nostro, che è un teatro di 50 posti e situato in un quartiere come Torpignattara, che è un quartiere che ha bisogno anche di un suo respiro, di spettacoli che parlino anche a un pubblico come quello del nostro teatro, quindi la scelta è sempre su drammaturgia contemporanea che parli del presente, quindi speriamo che di aver fatto anche di queste 40 una scelta importante, perché usciranno fuori progetti che ci accompagneranno durante tutto l'anno. Che panoramica ci faresti di questi 40 lavori? Di cosa si parla nel complesso? Ora, si parla di tante cose, di cose molto diverse. Abbiamo dei progetti interessanti anche sul tema dell'integrazione, che comunque è un tema che da noi non è mai banale. Diversi spettacoli di drammaturgia contemporanea sul fantastico e surreale, che è una cosa, sono argomenti che la drammaturgia contemporanea sta affrontando sempre di più. E poi diversi lavori di monologhi, di performance e anche di teatro civile, diciamo così. Però veramente le proposte sono molto eterogenee, quindi ci aspettiamo delle belle sorprese. Parlare del progetto non è sempre facile, quindi noi abbiamo preferito vederli in scena proprio perché siamo resi conto che dal progetto possiamo capire veramente poco, cioè il 20% di quello che poi sarà in scena. E poi ci sono magari compagnie che non sono brave a scrivere il progetto, ma sono più bravi in scena, che è la cosa più importante. Quindi ci fa piacere vedere 10 minuti, conoscere anche di persona gli artisti, in modo di confrontarti anche sul lavoro che abbiamo visto. Il nostro rapporto con le compagnie è molto familiare. Quando le compagnie lasciano il teatro, vi lasciano un po' un pezzo di cuore, un pezzo di famiglia da noi, anche quelli che poi non verranno selezionati. L'importante è il confronto, la continua voglia di migliorarsi, di parlare. Il teatro si fa un po' così, secondo noi. Cioè si migliora facendolo e poi parlandone, confrontandosi, criticando, che è comunque il migliore modo per crescere. Un bilancio di questa stagione al Teatro Studio 1? Io devo dire che forse questo sono uno degli anni più belli di programmazione nel nostro spazio. Siamo stati soddisfatti quasi al 100% di tutti i lavori che abbiamo visto. Credo proprio che questo periodo sia proprio questo Pillole che ci siamo inventati, tra parentesi, qualche anno fa, perché ci permette di vedere in 10 minuti, anche tu da spettatore lo saprai, si capisce molto da uno spettacolo. Cioè, se è uno spettacolo che ti prende in quei 10 minuti, ti sei già un'idea se sarà un spettacolo che ti piacerà o meno. Devo dire che noi abbiamo scelto questi 20 progetti l'anno scorso, anche meno, e nessuno ci ha deluso. Poi certo c'è qualcosa che è andato oltre le aspettative, qualcosa un po' meno delle aspettative, però veramente soprattutto i progetti di coproduzione e di produzione abbiamo avuto veramente delle sorprese. Siamo sicuri che sono progetti che andranno avanti negli anni e li vedremo anche in teatri più grandi del nostro, perché lo scopo anche del nostro spazio è di essere un trampolino di lancio per le compagnie, per creare il loro spettacolo, farlo debuttare e poi proporlo in spazi più grandi, e la collaborazione con Terra Quarticciolo va proprio in questa direzione. Ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Potete visitare il sito www.teatrostudio1.com o seguite la pagina Facebook Teatro Studio 1, la nostra mail che è info.teatrostudio1@gmail.com. Ricordiamo allora la rassegna Pillole a Roma, al Teatro Studio 1, dal 19 al 28 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Di Somma. Un abbraccio, grazie, in bocca al lupo, e a presto Alessandro. Grazie. Ciao. Grazie mille, ciao Federico, ciao a tutti, grazie. Con Chiara Becchimanzi, una delle curatrici della quinta edizione di Teatri d'Arrembaggio, Pirateria, Incanti, Castelli di Sabbia, ad Ostia, dal 20 luglio al 25 agosto 2019. Chiara, ben trovata. Grazie, grazie, ben trovata a te. Ne avevamo già parlato con te la scorsa edizione, ce lo ripresenti? Ma certo, certamente, con grande piacere. Teatri d'Arrembaggio compie 5 anni quest'anno, come giustamente ricordavi, ed è una manifestazione, un festival multidisciplinare, totalmente gratuito, a 2 passi dal mare, perché nel cortile del Teatro del Lido di Ostia, composto da oltre 18 eventi che si dividono tra Piraterie il sabato sera, Incanti la domenica pomeriggio e I Castelli di Sabbia il venerdì pomeriggio. Le Piraterie sono spettacoli rigorosamente per adulti comici, gli Incanti sono spettacoli per famiglie e I Castelli di Sabbia sono laboratori per bambini e bambine. Com'era nato tutto, ricordiamolo? Allora, è nato da, diciamo, l'esigenza di offrire alla popolazione ostiense una cultura estiva, gratuita, totalmente accessibile, che potesse dare, ecco, una completezza alla giornata di mare. Ostia durante l'estate è attraversata da tantissime persone, ostiense e non, anche romane, ci sono molte comunità di migranti, anche romane, che vengono verso il mare, appunto, ed è attraversata da moltissime persone. Molti di questi sono bambini o famiglie con bambini, quindi abbiamo pensato sia per attrarre quella fascia d'età che è difficile attrarre, cioè quella tra i 18 e i 40 anni, no? Perciò, quindi abbiamo pensato agli eventi, la stand-up comedy, la comicità graffiante, dedicati soprattutto a questa fascia, e a degli eventi invece dedicati alle famiglie, in modo che potesse essere possibile usufruire di una cultura di qualità anche durante le vacanze estive. Ecco. Come sarà suddiviso per giorni e per luoghi? Allora, la maggior parte degli eventi si svolge al Teatro del Lido, nel cortile del Teatro del Lido. Solo sabato 20 luglio, domenica 21 luglio, si parte con i flash mob all'Arrembaggio sul lungomare. Piratesse improbabili dalle gambe molto lunghe sconvolgeranno in bagnanti per, appunto, raccontare il tesoro del programma dei Teatri d'Arrembaggio. Quindi quella è la performance itinerante sul lungomare e in tutta la città. E invece tutti gli altri eventi si svolgono al Teatro del Lido. I laboratori sono all'interno del teatro, mentre gli spettacoli all'esterno nel cortile. Per quanto riguarda gli spettacoli, quanti saranno in cartellone? Allora, ci sono 6 Piraterie e 5 Incanti, perché c'è una Pirateria in più l'ultimo weekend, il venerdì sera. Okay. Avremo Michela Giraud e Maria Lalli in apertura e chiusura, quindi le due ladies della stand-up comedy italiana. Poi ci saranno 2 Saturday Comedy Live, ovvero 2 serate collettive di stand-up comedy. In una ci sono anch'io, se volete venire a insultarmi dal vivo potete farlo. Poi c'è un monologo teatrale molto emozionante, Serenade, storia di un eroe romantico di e con Raffaele Falzano. E poi c'è uno spettacolo teatrale collettivo, sempre per le Piraterie, che si chiama Precario Diario, ed è una follia clown durante la quale proviamo a raccontare, io e altre 4 pazze, l'era della precarietà. mentre gli incanti vedranno il teatro pirata, l'Accademia perduta, la Pipi in Pumpara in chiusura, c'è un bellissimo cabaret il 4 agosto pieno di artisti diversi, insomma c'è e poi ci sono Nando e Maila, la grande compagnia internazionale con la loro sonata per tubi, uno spettacolo di circo, teatro, musica che sfonde tutte le arti, molto molto appassionante. Quali sono stati i criteri di scelta di questi lavori? La varietà innanzitutto, la varietà dell'occhio, del punto di vista, della narrazione, alcune sono collaborazioni che stringiamo da tanti anni, devo dire la verità, soprattutto per quanto riguarda gli incanti, quindi ci teniamo anche a valorizzare i debutti delle compagnie che ci sono care e che non vengono spesso a Ostia, per esempio Nando e Maila che fanno base al nord, ma anche l'Accademia Perduta e il Teatro Pirata sono tutte realtà che non sono territoriali, non sono romane. Per quanto riguarda i comedian invece abbiamo cercato di dare spazio anche agli emergenti, ci sono tantissimi emergenti soprattutto nelle serate collettive, Davide Marini, Gabriele Antinori, Sandro Canori, Lanzillò, Sarapone, insomma nomi che stanno emergendo, sono emersi nell'ultimo anno, anche per dare spazio ai nuovi punti di vista, alla nuova comicità. Tutte e due le Saturday Comedy Live, dimenticavo di dirlo prima, sono coordinate dal maestro di cerimonie Daniele Fabbri, che voglio dire è un'istituzione nel campo della stand-up, quindi lui ci ha aiutato molto a selezionare, a scegliere i comici. I riferimenti web per la programmazione? Pagina Facebook Teatri d'Arrembaggio, Instagram Teatri d'Arrembaggio, il sito che sarà a brevissimo aggiornato online www.valdradateatro.it, perché l'ente organizzatore dei Teatri d'Arrembaggio è l'Associazione Culturale Valdrada che ho fondato insieme a Giulia Vanni e Monica Fabrizi nel 2010. Quinta edizione di Teatri d'Arrembaggio, Pirateria, Incanti, Castelli di Sabbia, il sottotitolo, ad Ostia, dal 20 luglio al 25 agosto 2019. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Chiara Becchimanzi. Chiara, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Un abbraccio a te, crepi il lupo, viva a seconda dei gusti. Ciao. Ciao. Con Loris Seghizzi, direttore artistico della 21esima edizione di Collinarea all'Ari, provincia di Pisa, dal 27 luglio al 3 agosto 2019. Loris, ben trovato. Buongiorno, ben ritrovati. Raccontiamo cos'è a chi non lo sapesse. Devo capirlo fino in fondo ancora anche io. È un festival che ormai, come dire, è figlio, no? Figlio, ci si interroga sempre su cosa dovrebbe essere in realtà un festival, che è molto diverso da quello che può essere una stagione teatrale, perché si aprono le piazze, si va sull'esterno, quindi, come dire, anche gli abitanti, chi vive il luogo, in un certo senso è costretto ad esserne parte integrante, quindi infatti dal momento in cui si ritorna alla politica, all'agorà, diciamo, si ritorna alla politica vera e propria e forse anche alla natura del teatro, ecco. Mm-hmm. Quali erano state le origini? Beh, siamo partiti nel 98 con un piccolissimo progetto, quando fondamentalmente è rinata la compagnia Scenica Frammenti, e era 4 giorni qui nel borgo, ma veramente non c'era niente. Poi nel giro di 3-4 anni tutto il territorio si è iniziato a interrogare sulla proposta, ha capito quale fosse l'indotto, quanto fosse importante in questa zona, diciamo, vergine a livello culturale e artistico, e allora c'è stato un interesse da parte di tutti di questo luogo splendido delle colline pisane, e da lì in poi è partito Collinarea, che insomma negli anni per fortuna insomma, è diventato un evento conosciuto anche fuori dal territorio, fuori dalla regione, ecco. Che impronta avete voluto dare a questa edizione? Negli ultimi anni ci siamo dedicati fortemente, riprendendo un po' il discorso che facevo prima, a una causa politica, proprio utilizzare il teatro per andare anche ad analizzare in profondo quello che la politica, chi governa, non riesce a fare, per una serie di compromessi e contraddizioni che tutti conosciamo. Quindi ci sono le tematiche che ci travolgono e che spesso vengono filtrate attraverso la misera, passiamo il termine, televisione, e invece abbiamo questo potere che dobbiamo, questo strumento che dobbiamo tornare ad utilizzare, che è l'arte in generale, non penso soltanto al teatro. Quindi i grandi temi sociali che ci investono, che ci travolgono davvero in questi anni, devono diventare il soggetto della manifestazione. Ed ecco che quindi si parla di, ovviamente, di integrazione, di immigrazione, ma anche di condizione femminile. Tutto quello che, insomma, di cui si parla, si sparla, diciamo, negli ultimi tempi, sempre di più, sempre più violentemente, sempre più assurdamente, dal nostro punto di vista. Ecco. Quindi un festival anche impegnato a livello, direi, sociale, ecco, anche se è un termine veramente molto, molto utilizzato, fin troppo. Quanti saranno i lavori ospitati quest'anno? 24-25 spettacoli, poi ci sono 4 laboratori, 2 presentazioni di libri, c'è una proiezione di un docufilm, di un documentario di Fabrizio Galatea, e questo grande spettacolo finale che appunto coinvolge tutto il borgo, ma nel vero senso della parola, perché l'aria è un palcoscenico dislocato a cielo aperto, intorno a questa rocca, a questo castello, cioè una via che in 3 minuti la si percorre a passo lento, e troviamo le piazze, il teatro, è tutto qua. Quindi entrando dall'unica via di accesso al borgo si entra in questo grande palcoscenico. Allora quest'anno più che mai abbiamo deciso di coinvolgere gli abitanti proprio per le scenografie, il sonoro della messa in scena del primo spettacolo dislocato, appunto, per non dire itinerante, finale, che è ispirato a Natale in casa Cupiello. Cioè, ci piacerebbe far nevicare il 3 di agosto, e alla fine ci saranno musicanti di San Crispino, questi 16 ottoni in scena a farci divertire in festa, a farci finire con una degna conclusione. Ma passerà anche la banda, saranno veramente coinvolte le figure storiche del territorio, nella fattispecie del borgo medievale Zari. Come saranno strutturate rispetto agli orari e ai luoghi queste 8 giornate? Allora, cerchiamo da sempre di non accavallare gli eventi, quindi di dare una scelta. Il primo giorno, il 27, avremo l'apertura con Bobo Rondelli, una veste particolare, perché presenterà il suo libro, il primo vero libro autobiografico, edito da Mondadori, e poi quindi ne verrà fuori non una classica presentazione, ma un evento tra letture, canzoni, racconti, e quindi sarà una lunga serata interamente dedicata a lui. E poi dal giorno dopo gli appuntamenti iniziano alle 19, poi abbiamo uno spettacolo al tramonto sul prato del castello, con ovviamente le luci naturali, alle 20, poi uno spettacolo di prima serata alle 21, e lo spettacolo di seconda serata alle 22:15. Ecco, quindi diciamo la giornata è piuttosto lunga, intensa, dislocati ovviamente gli spettacoli nei vari luoghi, tra il castello, la piazza Matteotti, piazza Vittorio Emanuele, il teatro di Lari e poi il borgo, perché poi durante la settimana c'è questo laboratorio condotto da Sabino Civillari e Emanuela Rosicco, che si svolge appunto durante tutti gli 8 giorni a partire dalla mattina, quindi in sostanza Lari sarà un cantiere del teatro, dell'arte per tutta la durata del festival. In chiusura ci lasci riferimenti web per la programmazione? Sì, www.collinarea.it, ci trova tutto il programma nello specifico, ovviamente da lì si può accedere anche alle informazioni utili per raggiungere Lari, luoghi dove dormire. Molti scelgono di passare una vacanza qua, quindi insomma www.collinarea.it. Ricordiamo la 21esima edizione di Collinarea Festival a Lari, provincia di Pisa, dal 27 luglio al 3 agosto 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Loris Seghizzi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto, Loris. Un saluto a te, Federico, grazie infinite, grazie, buona giornata a tutti. Con con Cristian Ferlaino, coordinatore scientifico della sesta edizione di Felici e Conflenti, evento musicale che si tiene a Conflenti in provincia di Catanzaro dal 22 al 27 luglio 2019. Cristian, ben trovato. Ben trovati. Che cos'è questo evento? Raccontaci un po'. Allora, questo evento è per noi è sempre un problema definirlo, nel senso che potrebbe definire un festival, però non abbiamo concerti e non abbiamo palchi, si potrebbe definire degli stage, però sarebbe comunque riduttivo, perché ci sono moltissime feste, moltissimi eventi, e quindi alla fine abbiamo optato per definirlo una festa di comunità, che in qualche modo definisce quantomeno lo spirito in cui l'evento viene prodotto. Com'era nato tutto? Nato dall'idea di Alessio Bressi e di Antonella Stranges, che si sono trovati ad operare a Conflenti, che è una realtà dell'entroterra calabrese che vive problemi di spopolamento e di emigrazione, e che però è il centro di un grandissimo pellegrinaggio a cui è legata anche la musica di tradizione. E Alessio, che è musicista di tradizione e ricercatore, aveva individuato nell'area ancora dei musicisti attivi a cui però mancava lo spazio sociale per potersi esprimere, nel senso che la musica nell'area ha un carattere molto sociale, viene suonato nelle piazze, in occasioni festive o comunque in occasioni conviviali, e in qualche modo la musica veniva percepita come un retaggio del passato, quasi da dimenticare, le modalità di divertimento erano cambiate e quindi veniva a mancare in qualche modo lo spazio per esprimersi di questo tipo di musica, e quindi l'idea era riportare queste persone, riportare questa musica negli spazi che gli erano propri. E da qui è nata l'idea di fare questa festa con partecipanti che in realtà Alessio non si aspettava nei primi anni arrivassero molto più dall'estero che dall'Italia o dalla Calabria. Leggo di un programma articolato con concerti, mostre, proiezioni e incontri d'approfondimento. Ci spieghi un po'? Sì, la cosa principale per noi sono gli stage, nel senso di mettere sono dei laboratori di strumento, di danza e di intaglio, che comunque rimane legato alla musica, anche l'intaglio sul legno, in maniera tale da poter trasmettere e mantenere in vita la tradizione musicale dell'area, coreutica dell'area. Intorno a questo ovviamente si crea innanzitutto lo spazio sociale per la musica per cui succeda, quindi pranzi sociali, feste in piazza, insomma fare in modo che la musica abbia uno spazio proprio per potersi esprimere. E poi abbiamo delle attività che complementano con degli approfondimenti teorici, quindi abbiamo dei studiosi che vengono a raccontare le loro ricerche sia dell'area sia di altre aree della Calabria, o anche, come in questo caso per la prima volta, a Felici e Conflenti da aree di altre regioni. Gli eventi quanti sono più o meno? Gli eventi sono quotidiani, nel senso che ogni giorno c'è qualcosa di diverso. Abbiamo la presentazione di un documentario di Danilo Gatto, abbiamo la presentazione del libro di Erbani, abbiamo un incontro con Nicola Scaltaferri sulla musica hard bresh, ci sono i musicisti e ricercatori siciliani che vengono a presentarci le loro ricerche e la loro musica, e abbiamo Anna Maria Civico che presenta un suo lavoro sulla rielaborazione della ricerca sulla musica vocale calabrese, c'è un programma piuttosto ricco. Le giornate da che ora partono più o meno? Le giornate partono dal mattino, di solito ci si incontra intorno alle 10 per la colazione e poi dalle 10:30 si parte con i workshop di strumento e di danza. Pausa a pranzo, si pranza tutti insieme e poi insomma durante il pranzo si balla, si suona. Pomeriggio ci sono gli incontri e poi nel tardo pomeriggio riprendono i workshop e poi la sera le feste in piazza. Tranne il mercoledì che abbiamo una giornata di trekking, che è un legame ormai storicizzato con un'associazione di Conflenti, che è Conflenti Trekking, che ci guida in una passeggiata nei boschi circostanti e che per noi ha un grande senso anche per quanto riguarda la musica, per mostrare i luoghi in cui questa musica è nata e vive. E qual è la situazione a Conflenti anche rispetto ai giovani, alle possibilità di lavoro, di un reddito? A Conflenti non è una realtà felicissima della Calabria, le aree interne si stanno svuotando. Conflenti storicamente ha vissuto fenomeni di migrazione enormi, con numeri enormi. Adesso l'attenzione è più sulle aree marine, che sono viste come di maggior attrazione turistica o almeno quantomeno di un certo tipo di turismo più immediato. Quindi la situazione non è evidente. Tuttavia in paese ci sono delle energie estremamente positive. Quelli che restano e quelli che ruotano intorno al paese sono fortemente attivi, contribuiscono in ogni modo agli eventi, non solo a Felice Conflenti ma anche con altre realtà associative. È una società, si può dire in qualche modo resistente, quantomeno che tenta di opporsi a fenomeni di spopolamento dell'area. In questo senso la cultura e nello specifico la musica possono essere strumenti di rilancio? Noi crediamo in qualche modo che lo siano. L'idea di Felice Conflenti è quella proprio di ridare valore a un patrimonio che è già presente sul luogo. Noi non abbiamo inventato niente, non abbiamo portato niente se non le energie per mettere a contatto quello che c'è già sul territorio con chi ha intenzione di conoscerlo. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Allora, feliciconflenti.it è il nostro sito, ci trovate anche su Instagram e su Facebook e tutti i canali digitali, poi ci sono i contatti diretti con gli organizzatori. Sesta edizione della festa di comunità Felici e Conflenti a Conflenti, provincia di Catanzaro, dal 22 al 27 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento al coordinatore scientifico Cristian Ferlaino. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Vedi, grazie mille, arrivederci. Con Livia Grossi, direttrice artistica di Fra le Mura Festival, quarta edizione nel comune di Framura, provincia di La Spezia, dal 26 al 28 luglio 2019. Livia, ben trovata. Benissimo, eccoci qui. Ciao Federico e ciao a tutti gli ascoltatori. Un'esperienza che non conoscevamo, ce ne parli? Certo, allora io da 4 anni organizzo questo festival in un luogo decisamente magico per me, nel senso che è un atto d'amore rispetto a una terra vicino alle 5 terre, gioco di parole, ma decisamente molto più schiva, cioè un territorio, è un tornante praticamente che è diviso tra tante frazioni e non passano macchine, c'è solo muretti a secco, gatti, mare meraviglioso, ha vinto infatti anche la bandierina blu, e ulivi a perdita d'occhio. Ecco, in questa dimensione io mi rifugio ogni anno e ogni anno ho deciso, appunto da 4 anni a questa parte, di restituire questa pace, questa bellezza con un festival che ho voluto chiamare Fra le Mura Festival, con un gioco di parole, ma anche proprio per dire che ci si vede in una dimensione intima, quattro occhi negli orti potrebbe essere il sottotitolo. E in questo luogo, appunto, invito persone, artisti, chansonnier, si fanno aperitivi musicali e teatro, tutto ingresso gratuito. È una follia. Ma è così. Ecco. Quanti saranno gli eventi quest'anno? Sono tre giorni, perché più di tre non riesco proprio fisicamente né a sostenerlo economicamente. Sono tre giorni molto concentrati. Venerdì 26 luglio si inizia nel borgo proprio di Stenda, quindi è il cuore di Framura proprio, nella piazzetta dove vi sto parlando. Praticamente qui, proprio di fronte a una scala che potrebbe assomigliare a quella di antica memoria proprio medievale, meravigliosa, ecco, tra tavolini e muretti a secco c'è l'aperitivo musicale che apre il festival con Raffaele Köhler e Elio Marapodi, ed è un programma molto divertente perché inaugura con swing e rock and roll. Poi, subito dopo, Raffaele Köhler e Elio Marapodi accompagnano il pubblico per la strada degli orti, che sarà illuminata con lumini e fiaccole, attraverso appunto gli orti, e si arriva in un antico cortile, a casella, che per me è diventato insomma il mio teatro, e lì apre il festival Lucia Vasini, magnifica erede di Franca Rame, con cui lei ha lavorato, proprio perché il festival quest'anno è dedicato a una riflessiva di Dario Fo e Franca Rame, che appunto debuttò 50 anni fa alla statale occupata Università di Milano. La comicità continua il giorno dopo, che è sabato 27, sempre nel borgo di Setta, quindi nel cuore del paese di Framura, con un altro aperitivo musicale di Raffaele Köhler, ma questa volta accompagnato dalla chitarra di Alessandro Sicardi, dove nella bellissima piazza rotonda, una rotonda sul mare potrebbe essere, dove ci sono, c'è una pizzeria, Raffaele Köhler e Alessandro Sicardi suonano da rock and roll alla musica brasiliana. E poi, sempre come la sera precedente, tapisserai magici accompagnano il pubblico lungo la via degli Orti, illuminata, con per arrivare all'antico cortile di Casella, dove c'è, attenzione, Antonio Cornacchione, il famoso povero Silvio televisivo, che tutti conoscono, per una serata di satira doc, senza freni, e mai volgare, ci tengo a sottolineare. Chiude il programma domenica 28 al Porticciolo, invece si va direttamente al mare questa volta alle ore 21 in una bellissima appunto bar che si affaccia appunto sul Porticciolo di Framura, Carlo Fava, che tutti conoscono perché è uno chansonnier molto raffinato, ha lavorato con Conte, è un po' in bilico appunto tra Conte e Gaber, ha lavorato con Noah, ha vinto premi di critica, insomma un lungo curriculum, che appunto con la sua tastiera e la sua voce canterà il nostro tempo. Sempre anche qui una riflessione sulla comicità, in quanto lui è molto ironico con le sue canzoni, è profondo ma nello stesso tempo tagliente, ecco, quindi un altro linguaggio per riflettere appunto sulla comicità oggi. Il tutto ad ingresso gratuito, venerdì, sabato e domenica prossimi a Framura, in provincia di La Spezia. C'è uno spazio web per maggiori dettagli? Farò prestissimo, perché non faccio tempo appunto a fare tutto, mi sto occupando di troppe cose che dovrei mettere, farò prestissimo l'evento, e quindi si può andare su Facebook al mio nome, Livia Grossi, dell'associazione appunto Drago Verde, che è l'associazione culturale a cui appartengo, che organizza con me l'evento. Però vado proprio sulla mia, proprio sul mio profilo, Livia Grossi, sicuramente sarà nell'home page l'evento e i post a seguire, e poi vi terrò informati, perché ci saranno fotografie ogni sera, terremo insomma informati chi non riesce a essere qui con noi. Allora ricordiamo la quarta edizione di Fra le Mura Festival a Framura, provincia di La Spezia, dal 26 al 28 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Livia Grossi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto Livia. Grazie moltissimo, un saluto a tutti voi, buona serata, vi aspettiamo. Con Chiara Giordano, ideatrice e direttrice di Armonie d'Arte Festival dal 20 luglio al 15 settembre 2019 in Calabria. Chiara, ben trovata. Buongiorno. Raccontiamo cos'è questo festival. Beh, è un festival che è tutto nel nome, Armonie d'Arte, sta per armonie tra le arti, armonie delle arti e anche l'armonia che riesce a creare l'arte, quasi come una sorta di avamposto per contenere le disarmonie, insomma, che sono sotto gli occhi di tutti nella quotidianità. Ecco, quel concetto a volte anche abusato di bellezza, che però insomma riverbera tant'è in una terra anche molto particolare, fatta di tanti contrasti come la Calabria, ma con un patrimonio strepitoso. Infatti Armonie d'Arte Festival in qualche modo si identifica con il parco archeologico di Scolacium a Borgia, sullo Ionio, il Medio Ionio, in provincia di Catanzaro, contigua al capoluogo di regione, ed è un luogo straordinario per valore monumentale ma anche per suggestione paesaggistica. Una colonia greca, una colonia romana, poi un insediamento normanno, insomma in 19 anni Armonie d'Arte ha provato a valorizzare questi luoghi come il senso profondo di un Mediterraneo che sa porre in essere una narrazione positiva. La cifra poi particolare di questo festival è proprio coniugare il profilo internazionale degli artisti, dei repertori, con anche l'attenzione al territorio, ma soprattutto produzione anche esclusive, prime, ma l'idea di pensare proprio come per assegnare al concetto di festival un ruolo che non è certamente la giusta posizione di spettacoli, ma è anche un fatto identitario. Quanti saranno gli eventi? Beh, quest'anno eccezionalmente inauguriamo sabato 20 luglio al Parco Archeologico di Locri, altro luogo straordinario del passato, è appunto una grande colonia magno-greca, spesso oggi insomma indicato per altre vicende, ma anche lì un territorio molto vivace culturalmente, quindi Armonie d'Arte ha ritenuto anche come fatto etico per invertire anche l'idea di luoghi che a volte alla cronaca salgono per altri motivi, ma portare invece la grande musica. Tanto sarà perché Didi Bridgewater farà questo concerto, che da diva del jazz però interpreta la più acclamata canzone francese, che poi è stato anche un suo grande amore, con un importante album nel 2005 e così via. E poi torneremo però al Parco Scolacium già dal 26 con Dulce Pontes, anche qui con un percorso accattivante dal fado al tango di Piazzolla. D'altra parte Dulce Pontes ha una intensità, una cifra espressiva così intensa, e lei stessa trova che fado e tango abbiano qualcosa di nelle viscere, no? È molto terreno, molto carnale, ecco, diciamo, sono due mondi avvicinabili. E poi ancora continueremo con un'opera rock, opera totale, come ama definirla chi l'ha ideata, e anche il regista e il coreografo, che è Mischa Vaneke, un'opera che ha debuttato a giugno al Ravenna Festival e sta avendo veramente un consenso importante, e noi l'abbiamo qui, dedicata ai Pink Floyd e alla Luna, Shine, di Mischa Vaneke, il 2 agosto. Poi è un festival che appunto nel concetto di armonia delle arti, musica, danza, teatro e quindi la lirica, produciamo ben due opere quest'anno, conosciamo Pagliacci il 9 agosto, nel giorno della morte di Leoncavallo 100 anni fa, è una produzione anche con un allestimento assai specifico di Sebastiano Romano, che è il scenografo, e abbiamo ideato con una factory addirittura propria del festival e con un cast veramente molto importante, con Alberto Mastromarino, Piero Giuliacci, Rossana Potenza, ecco, insomma, quindi anche qui un profilo importante. E anche poi la Tosca, che sarà la Tosca di Dimitra Teodossio, di Francesco Anile e di Marco Candini alla regia, e questo è il 23 agosto. Sto naturalmente dicendo un po' così, poi sono 50 spettacoli, tutto sul portale www.armoniedarte.com, ma mi piace anche sottolineare che ciò che connota forse questo festival è il grande omaggio alla Pina Bausch, che conosciamo tutti come un genio assoluto, la madre del teatro danza. Sarà un omaggio, un po' prenderà tutta una settimana, nel capoluogo di regione, quindi Catanzaro, nel centro storico, e la cosa che ci sembra molto significativa è che siamo riusciti a riportare in Italia la Tanztheater Wuppertal, quindi la storica compagnia di Pina Bausch, con l'ultimo lavoro dedicato alla Pina Bausch, Sinfissi di Dimitri Papaioannou. Non devo dire niente, su Dimitri Papaioannou è un po' l'uomo dell'anno, insomma è un coreografo da più parti indicato come uno dei più interessanti, più visionari, eclettici, anche anche lui un genio, insomma, che appunto sarà qui con noi il 13, 14 e 15 settembre. Sono andata un po' così per sommi capi, poi molto altro, se insomma si può scoprire del cartellone, che peraltro è anche fatto di momenti, di dibattiti, di attenzioni a tematiche specifiche, insomma, un po' di tutto. Bene, allora i riferimenti web ce li ha dati per quanto riguarda le informazioni. Ricordiamo la 19ª edizione di Armonie d'Arte Festival in vari luoghi della Calabria dal 20 luglio al 15 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice e direttrice Chiara Giordano. Grazie a voi e buona giornata, vi aspettiamo in Calabria. Con Simone Nigrisoli, autore del libro Walk This Way, la subcultura hip hop dagli Stati Uniti all'Italia. Simone, ben trovato. Ciao, ciao Federico, ciao. Come lo presenteresti, come lo descrivi questo lavoro? Beh, è un testo, diciamo che è il primo libro sociologico sull'hip hop italiano, e poi comunque è una raccolta di studi sociologici sull'hip hop americano, semplificato in 145 pagine. Come era nato tutto? Questo libro è parte della mia tesi di laurea, nella quale ho voluto fare una ricerca antropologica e sociologica sull'hip hop, e poi ho visto che si poteva tramutare in libro e che poteva anche interessare comunque a un pubblico più vasto che solamente i miei professori, e diciamo che un po' così è stato, dai, mi stanno chiamando un po' in molti locali e sto conoscendo tanta gente ed è una bella soddisfazione. Come è strutturato il lavoro? Ci sono tre capitoli. Il primo capitolo riguarda il mondo delle subculture in generale, il secondo capitolo riguarda l'hip hop americano e il terzo capitolo è riferito all'hip hop italiano. Com'è stata la ricerca? Dove ti sei mosso? Ho fatto delle interviste qualitative ai rapper italiani, ai pionieri dell'hip hop italiano, tra cui Ice One, gli Assalti Frontali e Rula degli Atipici, e poi ho scaricato 25 testi, ho comprato 25 libri e scaricato da internet più di 100 articoli in 8 lingue diverse, quindi è stato un lavorone. Com'è stato il percorso musicalmente dagli Stati Uniti fino all'Italia? In Italia, come in tutta Europa, l'hip hop è arrivato con la breakdance, con i film sulla breakdance. Dopodiché il rap è arrivato dopo, a chiedersi dopo quale fosse la musica, prima iniziato tutti quanti a passarsi di breakdance. Poi in tanti paesi si è sviluppato subito, in Italia si è messo, è arrivato nell'82, le prime canzoni risalgono agli anni 90, quindi si è messo 8 anni prima che le persone iniziassero a fare rap in italiano. E all'inizio soprattutto penso all'esperienza romana, all'Onda Rossa Posse, con una forte connotazione politica. Certo, questa è la particolarità italiana, che i primi a osare a fare rap in italiano sono stati i compagni del Fronte Palestino, e questa è una caratteristica tutta nostra. Quindi poi i classici ancora rappavano in inglese, i compagni del Forte Prenestino, tra cui Luca degli Assalti, hanno detto, Luca Militanta, si sono buttati in questo esperimento di fare rap in italiano e hip hop in italiano, esatto, e comunque alla fine da lì è partito tutto un filone di rap militante, che è stato il primo rap in italiano fatto in Italia. Negli Stati Uniti invece cosa succedeva prima? Hip hop nasce nel 73 nel Bronx, in un periodo di pace, diciamo, mettiamola così, perché il Bronx era appena uscito dalla guerra delle gang, e allora in questo periodo di pace i giovani cercano altre maniere per svagarsi, e cercando nuove maniere per svagarsi inventano le quattro discipline, la breakdance, il writing, l'emceeing e il DJing. E poi comunque un personaggio che era un ex capo gang del Bronx, che si chiama Africa Bambaataa, un personaggio molto carismatico, decide di darci un nome a tutte a tutto quell'insieme di arte che stava nascendo e che stava facendo più bene nel Bronx, e lo chiama hip hop, ci dà delle norme, dei valori, un messaggio da diffondere, e così nasce l'hip hop a metà degli anni 70 negli Stati Uniti. Che ne ha adesso di questo fenomeno in Italia e oltreoceano? L'hip hop esiste ancora, certo, magari negli anni è cambiata un po' la situazione, però l'hip hop è sempre quello, non è mutato da 40 anni a questa parte, i valori sono sempre quelli, le norme, i pionieri da cui fare riferimento, la storia è sempre quella. Certamente adesso abbiamo la particolarità della trap, diciamola così, che è un pochettino entrata tra gli appassionati di rap e hip hop, è un po' subentrata, però l'hip hop è sempre quello, non cambia, mettiamola così. Dal punto di vista sociologico, quali sono gli elementi a tuo avviso qualificanti di questo fenomeno? È molto importante il fatto che l'hip hop è una valvola di sfogo alla rabbia delle persone che nascono in ambienti sociali molto degradati e di esclusione sociale. L'hip hop dà una via d'uscita, mettiamola così, riesce a incanalare la rabbia, e poi anche comunque il messaggio che vuole rivolgersi a tutti quanti e le persone che decidono di militare e di appassionarsi di hip hop è un messaggio comunque di impegno sociale, di antirazzismo, di sfida contro se stessi, di crescita personale. Diciamo che può essere un'ottima scuola di vita che dà molti obiettivi a livello individuale, e nello stesso tempo può anche rendere più solidale una comunità. Che percorso stai facendo per la presentazione del volume? Queste ultime presentazioni cambieranno un po' di stile, perché inizierò a parlare anche del contesto romano, cioè inizierò a parlare anche di come l'hip hop, come tutte le culture che nascono dal basso, caratterizzano la cultura romana e la città romana come fenomeno urbanistico, e poi naturalmente valorizzando comunque l'intreccio tra hip hop e centro sociale, cultura, arte e centro sociale, aggiungendo comunque delle idee su come comunque queste forme culturali e musicali possono aiutare a comprendere il disagio giovanile, possono aiutare a comprendere la società nuova e dove si sta andando. Soprattutto si parlerà anche di trap, si parlerà anche di questo nuovo fenomeno musicale che è molto in voga tra i giovani e riesce a descrivere molto bene il disagio giovanile che le nuove generazioni stanno vivendo. In chiusura, ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più sul volume? Certo, il libro si può trovare in qualsiasi store digitale, e poi comunque è distribuito da Messaggerie, che è una delle migliori case di distribuzione di libri. Quindi si può ordinare in una libreria al massimo dopo 4 giorni. Il libro Walk This Way, la subcultura hip hop dagli Stati Uniti all'Italia, un saluto e un ringraziamento all'autore Simone Nigrisoli. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille Federico, un abbraccio. Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.